Schermo spaziale rotto, ah. Dico il mio robot di iniziare a girare otto. Ogni sogno qua se può andare bene va storto. Però vado a casa nel push al col teletrasporto. Guerra tra sicari messicani contro i rettiliani. Esperimenti lessicali, architetture verticali. Vogliono farti dimenticare anche come ti chiami. Se sbagli con questi cani fai voli di 20 piani, ah. Acido nell'acqua, zombie comandati dalle lobby coi corpi gobbi e lobby condannati. L'assistenza sanitaria ti manda in coma gratis. Se caccia quelli come noi che se ne sono andati. Parlo tra i segnali radio, fai model nell'armadio. Mafia P3, radio, i drammi non posso farli aumentare e farli mentare. Sto mettendo da parte i soldi per farmi bennare. Tengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che è finto. Poppano il cervello fino a riempirlo. Black Mirror. Tengono le pecore nel recinto, spingono per vero quello che è finto. Poppano il cervello fino a riempirlo. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. Black Mirror. The holiest, holiest, they ain't controlling this. Poking them bitches like I'm Berlusconi. And mixing my dope, I'm a potent ass chauvinist. Not knowing what we take over, it's over with. Terminate tactics in less than a second. My brain is infected, my pen is a weapon. I digitize data, the pain is intense. If the game done change, so I end it. Walk with a nigga, I show you the real world. Realer than silver, I'm broke but I still work. Look in the mirror and tell me what you see. All I see is pussy, I'll eat them like sushi. But I must peace, I must crush, I must speak, I must bust the lust deep and such, but we beasts can't touch us.